prova, 1, 2, 3, prova, chi c'è? Attenzione, 10. Zecca, buonasera. E cos'è, la sentinella stavi facendo? No, acceso adesso, acceso, ha sentito a te, ho sentito. Ah, pensavo che eri da guatto. No, appena acceso. Se è freddo è tanto. Quindi tu devi farli. E anche io acceso adesso, in questo momento. Ho finito col canto e acceso qua. Aspetta, lo sai che stamattina mi è arrivato il messaggio dalla dottoressa il giorno 3 alle 12 su Arizzedo. Io devo andare l'1. Tu l'1 ed è lo 3. Mi è arrivato stamattina di presentarmi alle 12 il giorno 3. 12:25. E le analisi dove le fate? Domani mattina me le faccio le analisi. Le vado in via Pasubio e me le posso inchivi. Ma non ti ha mai detto nulla perché vai in ambulatori privati la tua dottoressa? Ma cosa mi deve dire? Mi ha preso alla sprovvista, Invece di avvisarmi prima che dovevo fare le analisi, io cosa ne gioco? È l'unico posto dove posso fare in fretta. E alla Tedolce? A Tedolce lascialo stare, no, non ci vado neanche io lì. Posso più le tranquillità. Ma già va a consumare un po' garedo di benzina, io se ne affutti però ando in chili. Perché alla Tedolce le fanno bene le analisi? Sì, ma non me le danno subito, me le danno dopo 3-4 giorni. Il giorno dopo, fate voce te le danno il giorno dopo, perché le faccio io. Ah, io non ci vado neanche. Già la saluta mi ha degugliato il braccio, mi ha degugliato. Secondo come la trovi, quella ragazza che si acciappa la vena e non riesce a acciapparsi la vena come si deve. Ma io l'ultima volta che sono andato era chiuso, aspettato, non hanno aperto e me ne sono andato e sono andato via Pasubio. Un paio di giorni è rimasta chiusa. So che era di qua, sei andato tu di martedì. Lunedì. Eh? Lunedì. Lunedì, allora mi pare che era già arrivata tutta la ghida, non si occupa cosa, o era marata. Ma sono più di una, non ne ho una sola. C'è quella signora anziana, poi c'è l'infermiera, c'è l'altra ragazza, Non lo so, deve esserci qualcuno che... Poi il capo cosa che è rimasto malato. Era chiusa, io l'ho vista chiusa, 2 giorni l'ho vista chiusa. Non ci sono andato più, dalla volta che mi ha ligugliato lo braccio non ci sono andato più. No, ma me l'hanno sempre fatto bene, la verità. Probabilmente non trovava la vena. Tu c'hai le vene fine, io ce le ho grosse le vene, a me me la trova subito. Io a me mi si vedono anche, quando vado là, mi appa subito, mi attacca subito. Lo infila subito, lo infila. A me me lo devo leggere come te mi ha fatto chissà. Il mio dottore mi ha detto che di farle o al Dinam oppure al palazzo Rosa. Io gli ho detto che a me mi veniva male, che ce l'avevo vicino a casa, che mi veniva male andare a stare 3 ore aspettando a fare la fila, ma te ne vai. Perché ha detto che lui non deve perdere tempo a copiare le cose, ma te le immagini, per non perdere 10 minuti lui ne devo perdere un'ora io a aspettare. Ma perché meglio le fanno a cosa? Ecco, le fanno più bene questi qua che qui. A me non mi ha detto mai niente nessuno. Come gliele porto, si rabbaidano. Se mi dice cosa, vabbè, la prossima volta mi avverta prima allora. No, perché dice che da lì le mandano direttamente a loro, al computer, capito? Gli fanno l'email direttamente e le spediscono. Invece così, che le devo portare io e praticamente se le devo ricopiare. Basta farsi la fotocopia, accevi voi. Io ho visto la dottoressa e l'altro medico che ci avevo prima, ci va via nella fotocopia, ci va via. Ma deve scegliere il computer, capito? Se lo si inserisce nel computer, tutti i fogli che gli ho dato io se li ho inseriti nel computer, se li ho inseriti. L'ultima volta che sono andata se li ha messi lì nel computer. Non li vado male, no? Certo, cos'è? Ma questo è una rottura di scatola, tratta male anche l'infermiere, le prende a voci, cazzo, una volta l'ha preso a voci davanti a me, si è messo anche a piangere questa infermiera, mi sono avvicinato io e gli ho detto dai non fare così, ho cercato di consolarla, poveraccia, l'ha presa a voci, l'ha umiliata davanti a tutti. Che dottore? Non si fanno i nomi qua. No, perché... quando sono andato io l'ultima volta c'era coso stava prendendo voci a me, poi stava prendendo voce la cosa, mi sono bisogno, mi sono fantallaggia zantarado raggio, se gli sono disendio sta tranquillo che è rimasta zantarada alla dita, aspetta un attimino, mi avevo il telefono, sono uscito da fuori giù già maduri carabinieri a vedere cosa è. La gita non si permette più di prendermi a voce da giudizio, che non sono figlio suo. Cosa si crede di essere? Perché il medico si crede che non lo posso affrontare. Si è cagliato. Ha chiesto scusa. E chi era? Cosa? Pacifico. Che te sai, vedevo? No, il figlio è... Prima c'era il padre. Il padre seguiva la mamma. E c'è ancora lui, non so se sono andato in pensione, ma ultimamente, però quando sono andato io a febbraio c'era ancora lui e io ho sentito che stava prendendo la voce e mi aveva preso la voce a me e anche la un'infermiera. Ha detto alla Giazzantaradu raggio di non permettersi più di prendermi la voce a me e l'infermiera, che non siamo così, non siamo. Allora è rimasto, si è cagliato. Boh. E per quale motivo? Perché io stavo aspettando di entrare dalla dottoressa, ero giù e poi mi ha chiamato l'infermiera. E poi dice che credete che siamo un parlatorio qua. Noi siamo qua aspettando. Se lei non ci può stare, gli fa male la testa, se prende il culo se ne va. E si mette in malattia. Molto ci vuole, invece di prendere anche a voce. Stanno lavorando anche loro. L'ho già tanta raggio, raggio. Adesso che da fuori, Giugiamato, ricarabinieri, Giugiamato. La guardia si è messa lì. Ma giumai si mangia buona guardia, si mangia. Ma cosa si crede di essere? È un uomo grande che prende a voce la gente. Ce ne faccio la vergogna. Adesso in tre mi avevo riposo. Con una guardia la tanta raggio. Prima io, dopo che sta tromo, l'audo, che era un suo paziente, dopo che sta altro, che è entrato a Santa del Duburu, ha detto tutto, ha preso a due mesi, ne è andato. Allora ero di Roma Chiesi, ma se no rugabbo già da un verso, va via, che? E mi bigliabbo già a me, ha detto già un suo paziente, ma non sono andato perché non lo potevo più vedere a lì. Cazzo, sei tutto esclusivo, poveracci. No, a me la voce non mi ha mai preso, ma c'è una maniera strafottente il mio medico di dirti le cose, capito? È molto... è antipatico, come ti dice le cose, ti irrita. Poi che se io me ne sono andato, da dove tant'anni me ne sono andato, che non potevo più vedere. Cazzo, mi faceva venire all'otto, l'ultima volta mi faceva venire all'otto, me ne andavo a mezzo lì. Tu bella esetta va. Quando sono entrato ho detto guardi che non vengo più io, me ne sto andando da lì. Mi ha rotto le palle la giudizio. Mi sta troppo male di vedermi facendo così. Ah, faccio quello che vuoi, faccio quello che voglio sì. Ma non posso più vedere. L'assistente gli va via. Ha fatto la mattia singosa, ha preso il bene e se ne è andato. No, ma non è pacifico, non è quello lì, è un altro, però deve essere che lì hanno tutti lo stesso modo di fare, capito? invece di comportarsi come si deve con i pazienti, sapendo che c'era una patologia, cercando di lasciarli tranquilli, anche perché uno quando è diabetico lo si deve incazzare, c'è la salaglicemia e arriva alle stelle. Non gliel'ho detto io quello. Fatto, caspita, se mi sono la glicemia per colpa sua, ma sai come lo faccio? Ma bisogna giocare, se giù di carabinieri, oggi tu è troppo ritardo siete venuti. Quindi il medico che si è incazzato, ha preso il piede e se n'è andato. Che ci aveva il coso girato il rovescio. E l'infermiere che si bisogna portare lì a lanciare i carabinieri. Al carabinieri, non parli così, signor Pina, non parli così, no? Non si può fare. Ma sai cosa è? Speriamo che non mi sia salita la glicemia. No, no, non ho visto cosa gli avrei fatto. E invece a me una volta ho cambiato dottore, no, il medico di famiglia, perché il mio medico è andato in pensione, la mia dottoressa. È andata in pensione perché non gli hanno fatto la domanda per vedere se gli concedevano di stare altri anni, invece non gliel'hanno concesso. Lui può fare la dottoressa, però non per la SL. E siccome nell'ambulatorio suo c'erano due ambulatori, uno se l'ha tenuto questa dottoressa che avevo prima e fa altri tipo certificati sportivi, tutte queste cose qua, e l'altro l'ha dato all'altro dottore e mi ha detto: guarda, se vuole andare con questo dottore, tanto cioè deve venire qua e io gli faccio il passaggio diretto e tutta la documentazione a questo dottore, e così almeno lì è tranquillo. Sono andato a prendermi le medicine e mi ha detto: piano terapeutico dov'è? Ho detto: piano terapeutico io l'ho consegnato alla dottoressa. E mi fa praticamente: no, io qua non c'ho nulla, il computer non risulta nemmeno lei nel mio computer, questo e quell'altro. Telefono alla dottoressa perché non c'era. Telefono e mi dice che sta andando a Londra a trovare la nipote che praticamente doveva compiere gli anni e andava alla festa della nipote a Londra. E stava prendendo l'aereo. E ho detto: così e così, dottore, ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto che loro per le cose sanitarie non intervenivano. Questa è una donna che mi ha risposto, una carabiniera. Mi ha detto: no, noi per le cose sanitarie non interveniamo. Perché ho detto: questo dottore sta rifiutando di dare una medicina salvavita, perché queste medicine qui le prendo per non salirmi la glicemia. Lo so, però noi non interveniamo per queste cose, dovete cercare di mettervi d'accordo voi, capito? Sì, certo, è una cosa... Poi... Andiamo! Queste cose così già sono venute. Perché c'era una specie di bisticcio, era. Ma se aggiunti, se sei più, lei si deve calmare. Non sono io che mi devo calmare, no. O dica al medico che si deve calmare lui. Aspetta, ha preso a voce l'infermiera, che è uscita piangendo anche. L'ho dovuta far calmare io. Aspetta, ma deve fare quello, deve trattare le persone così, questi qua. La casa di pregare che mi sono calmato io, se no ha visto dove c'ero uscito. Dice: signor Pina, non lo deve fare, perché se gli mette le mani addosso è colpa mia. No, gli metto le mani addosso io, lo faccio scappare direttamente. Come ti sei andato? Che mani addosso gliela metto? Prendo la pistola e lo sparo direttamente. Avanti lui. Andiamo, bene, andiamo! Sono mio un altro! Ah? Ma per buon cappello! Dici, ma che ne dai? Parli di ballone! Voglio avanti! Andiamo, bene, andiamo, la tagliano! E io lo so che andiamo bene! Ora, riprendi! Sì. C'era di 1700 anni fa. È così, sì. Ma il primo viaggio. Lo sia che ti faccia male, anche a tu, mini bassi. È vero. Sì, no, ti gridi no. Se non va bene contro un medico, mi. Lo sia che ci passi anche tu. No, questo gruppo no. Ah. Un cinque giordani, alle vittime, due uomini. Ti passiamo così. Andiamo bene, andiamo, toccata. Io credo che andiamo bene, se non andiamo bene, vuol dire che siamo lo, se non andiamo all'altro mondo. Ma che? Poco, oh, boh. E così è, vabbè. Hai capito, Gianni? Io già ho capito, ma non stavo dicendo lo stesso dottore. Voglio premettere questo, io con quell'urino non ho mai avuto a che fare. Mamma c'aveva il padre, la teneva pure il padre. Ehi, un rubabbo proprio con Pacifico, come, con Pisso. Che non lo posso più vedere, non lo posso. Ma il padre non c'è più da tanto, c'è il figlio adesso. Io l'ho visto, l'ultima volta l'ho visto a febbraio, l'ho visto. Allora sono andato in pensione, o se ne hanno mandato in pensione, o se ne è andato quello. Ma non per la base a più. Allora io sapevo che dovevo andare in pensione. Quando glielo ho detto all'infermiera, ma non è in pensione Pacifico, che invece dice l'hanno tenuto qui. Invece l'hanno tenuta a dirigere, l'hanno tenuta, ma è più di, c'aveva più di 70 anni va via, ce n'ho 80 a Buru. La situazione ha di più non possono andare avanti. No, ma il figlio ci avrà sui 67 anni, 65, 67 anni, quello che c'è adesso. Ma precisa è dove? Beh. Se precisa è dove non andiamo d'accordo. Non è compreso, no. Non è il figlio di Paci, il figlio è lui, quello che c'è adesso. Prima c'era il padre, adesso c'è il figlio. A posto di Pacifico. Non è il figlio di quello che c'è adesso. Lui è il figlio di quello che c'era prima, mi capisci? Non lo so, sì, però il vecchio ce l'avevo io, sino sono, ci manco, sì o no, da lui un 5 anni ci manco, però io l'ho visto a febbraio che stava facendo ancora l'ambulatorio, dove si è preso il posto il figlio allora? Vabbè, ho capito, Luca, va! Eia, un casino, cazzo, il tuo freddo, mamma mia, caldo e brutto, ma il freddo non lo scherza, ma il freddo ti puoi salvare, dai, ti salvi, accendi la stufa, qualche cosa. Io quando sto uscendo col cane mi sono mettendo anche i guanti la sera, la sciarpa, i guanti, la saccare giù di due. E tu trapone la ciccia in capo, dottore? No, io la giro a guffietta. La guffietta del golfo, un altro golfo sopra e più il giubbotto. E più i guanti. Ah, andava bene, dai, va bene. Io ho quei guanti che usavo per la moto, proprio guanti da moto sono, no? Che sono felpati all'interno e fuori sono isolanti. Praticamente se piove non si infonde lì in mano, l'acqua scivola. Quelli che stavo usando con la bicicletta io mi sto mettendo la notte. La notte e la mattina. Poi durante il giorno con quel freddo che stava facendo stavo usando quei guanti tipo pile. Hai compreso? Quelli di quella stoffa a cuore, quelli leggeri proprio, che sono ti danno caldo. Dai, lo pile! Play, come te lo puoi chiamare? File! Andare per così! Avanti! Vedete buone le batterie di buone, pile! Allora, all'interno c'hanno le batterie per accendersi la luce. Per scaldare le mani. Per caldare le mani. Oh yeah. che to. Ah, ti credo. Certo, tutte le giornate hanno un pezzaretto e boh. Beh. Dove viene Gianni Mina? Vabbè. E dai, per questa faccenda oggi, non? Abbastanza. E quindi come fai quando devi portare il pane? Cosa volevo la faccia? Ti scingheggi tutto. Ma hai detto, è parlato di neve o freddo? Io ho detto, se sta nevicando. Ah, ho capito che c'era freddo già, scusa. No, niente, zero. Io una volta sono andato a fare una consegna con l'asilo che c'è all'entrata, è presente dove ci sono i campi, giri c'è un asilo lì, dopo c'è una toppasta o di roba, se c'era la neve, c'è un guriscingato che se c'è mamma mi trocco usci, sono caduto ancora a terra, con il carrello tutta quanta la, tutta la, la pasta sopra, la, i cartoni di pasta, cazzo guarda, la sampata mi ha giubilato perché c'era il ghiaccio sotto. Beh, immagino. E guarda, giù va a tazzare i chili, e se non voleva mi pattinava tutto, lui, ha detto no, che vuoi fare un azzo, se la mille luci, solo che era un bel lontano a scaricare da lì. E, sono, e stavo continuando a levicare, e ho fatto scaricando sempre sotto la neve. Già ghiaccia, lì c'è freddo, sei in montagna. Cazzo, ti mi dà pa' beh, ma trocca. Allora, è stato diviso dove andavo io sopra, dove c'è il rifugio dell'Aquila, non so se lo sa, dove c'è la chiesa su e c'è lo spiazzo, io lì andavo a modulare, cazzo, parlavo con tutta la Sardegna, con Cagliari, con tutti i bassi arrivi, ho parlato, come si chiama, a Basanta, e vabbè, con il Nearetto, quello ma, 231, e 747, con quel Nearetto lì, parlavo con tutta la Sardegna. Io ce l'ho sempre, ma che sta canciato, sono aspetto, stacco. Oh, yeah, cazzo. No, era attaccato. No, io non ce l'ho più, non ne ho più lineari. Ma cosa te ne fai? Ma, non mi pare nessuno. E vabbè, non c'è più quello famoso che hai comprato, quello a, a cosa, a, come cazzo si chiamava, quello, boh, adesso mi ricordo, a transista, da? No, io c'avevo praticamente quello a 300 watt che era, era quello finale a MOSFET. Sì, a MOSFET. MOSFET! A Moser. No, l'ho venduto, Luca, l'ho venduto perché tanto non ne stavo più usando, era sprecato. Beh, quello lì costava anche una cifra, eh. Oh, io c'ho questo 747, va benissimo. E a MOSFET, lo so. E anche 747 è bellino, ma non ti fa fare più di due segnali, con quello andavo a 4 segnali in più. Ah vabbè, già va bene, gli sarei aiutato poco a poco. Scusa me ne affutti, va. Questo avevo pagato 50 euro, nuovo nuovo, era di Giuseppe Tornado, ma aveva venuto lui. Lo stavo cercando disperatamente, questo 747, poi ce l'aveva uno in più lui. E vabbè. Allora Titto, mi sa che mi ribiso un attimo, devo mangiare il cane, là. Così mi prendo qualcosa, sta, c'è un inizio di tosse. Mm. Allora bascia. Ma però me lo metto, e da quando ha cambiato casa Giuseppe non è più entrato, è entrato qualche volta, poi ha detto che metterlo sul tetto lo faceva, questo e quell'altro, non è più entrato. Poi c'è l'impegno della Guardia Zuffi, anche del lavoro. Sì, ma mi sa che con la Guardia Zuffi non va più tempo, non va. La domenica, se è di turno ce lo deve fare anche la domenica. Certo, penso di fare un 16. E lo sa, a me non mi piacerebbe, cioè mi piacerebbe per salvare gli animali, queste cose qua, per far rispettare le regole, però non mi piacerebbe perché ti fai troppi nemici. E c'è gente che ha usato rugani, addirittura a uno gli hanno bruciato la macchina, al comandante di, della squadra di Guardia Zuffi, gli hanno bruciato la macchina. Dai, no, no, troppi nemici ti fai così. Non devi essere molto serio, ma non dico io. Se ne devi pigliare un cane, ma poi se ne devi pigliare non l'ho compreso. A meno che non lo sta trattando male. No, è la stessa guinzaglio, gli ho fatto osservazione, gli ho detto di mettere in guinzaglio, gli ho detto che il guinzaglio che c'è mia zia, era ricci dell'influente, fa fare dai. E via, cosa, e via Venezia, lì c'è questo. Ah, certo, io ti credo. Ma già per dice delinquente. Ma io ci vuole solo il parato in fronte e basta. E gli ha cavato i carabinieri. Ha fatto un morsicare dal cane. Non ti acciappi con quei salienti che è proprio delinquente. Quanto dice che ha già due giù al Bronx? E mi ha toccato pigliare un roccio, andare alla macchina e pigliare un roccio. A chi tu dici tu pure a Gattea, dici tu? Ho me lavorato, non cagliavo godo, ha detto, io vado dove drocco io. Ha detto un attimino, ha sbagliato un roccio. Poi mi ha fatto, dice, ma cosa fai con una catena? Vuoi che trabocchi a un godo? Ha detto, oh mamma, adesso come ti fa pietà, si è serato. Ha detto, fa una cosa, buona delle volte e avviati. Che c'è binghiroso, ha detto. Che ce l'ha pilota con te? Cosa ne so, era mezzo drogato, era. Deve da sé l'ha fatto male la droga. Ha cominciato a fare pietà, non sapeva cos'era di zendi, boh, non lo comprendeva più. Boh, era senza, parlava senza significato, là. I compagni, tu fate il gang con gatta che dalla salità, te quando fai il potere roccio c'è all'altro mondo. Ah, chi tu? Sono così in me. Se sono buttato mi vedo un piacere. Anche se non pensare tu piacere. Io sono riuscito a pigliare la gabbia, la giovata, la compagna, la giovata. La vira, la scelta da voi, ci sto a chiamare, a impiccarsi. Chi l'ha giunta, Isha? Ci ha detto il colore, adesso a Roma ho visto un filmato su internet, questa ragazza si è fatta, si è spogliata in macchina, è uscita fuori in mutande il reggiseno e si è messa a bloccare tutto il traffico a Roma. Una bella ragazza, aveva un bel fisico e tutto, si è messa il reggiseno alle mutande, apre i nudi tutto quanto e ha bloccato tutto il traffico, il tram andava a partire e si metteva davanti e diceva cosa l'autista. Certo, chi si è appigliato la droga, si è alterata, ma da capo non è andato, certo, non ci ho appidanazzi, no, se si muove da una macchina non riesce più a andare. No, non è vero, era esaurita, io a Roma ne ho visto uno lo stesso, in Piazza di Spagna, praticamente era con una camicetta d'estate, una camicetta a maniche corte, a un certo punto ha aperto tutti i bottoni, si legava la camicetta ed era seduto. I carabinieri sono andati correndo per fargli mettere subito la camicia. E praticamente se l'ha rimessa come si sono buttati i carabinieri, si legava da d'ora. Alla tua doccia qualcosa io avevo visto io, di questa ragazza qua, che c'era fatta. Un po' così l'ha cavato la camicia, destatemi, ci ha cavato la camicetta ed era a tutti nudi. Mi sono avvicinato, non ti avvicinare a me, non mi devi toccare. Niente gente, non ti sto toccando, mettiti la camicetta che non devi fare la gente. Vedi che tutti ti stanno guardando, ma che guardino, guarda che belle teste, tappati però. Ma com'era bionda? No, con i capelli neri era. Ma tu dovevi vedere, quindi non c'è più cosa è peggio era. Ha detto, non ti sbagliare al resto, no, perché te lo devo far vedere. No, pigliino sei come ti sei, catta. Io vicino alla coppia si mettono sempre. Per carità, cos'è Conrad adesso che pare? Era la coppia prima, te lo ricordo. Se ne veniva tutti i rigurori, se ne veniva. Una mia amica ha fatto una spesa, stavo uscendo fuori, le ho chiesto i soldi, è uscita una commessa e ha detto, cosa le stavo dicendo signora, richiama i carabinieri? No, mi hanno chiesto solo dei soldi, ma io non ne ho da dare, non ne ho per me, li devo dare a loro. E così hai fatto pure a me, mi ha recitato il coso. Ma ne detto a vedere, ma non compare c'è una villa, ma non ha figlio di manni io. Piaggio minore il figlio. Ah poi non ha di mantenere io. Fa una birra, non ti costa nulla, no, un euro, certo, un euro a te, un euro a chi dato, un euro a chi dato, mi dice di mandarmi di là, già non ha giro. E intanto c'è un tempo buono, io, per carità, e vabbè, c'è quello che li vuole per una cosa, quello che li vuole per l'altra, c'è contenti tutti, hai ragione tu, ma finì che da qui non hai dubbi. Ogni tanto si può fare, ma a questi tossici non ne ho mai dato, non li voglio praticamente far continuare a viziarsi, finché uno ne ha bisogno l'aiuto, c'è qualcuno disoccupato, cose così sì, ma proprio allora. No, io quelli che si mettono vicino alla Conad, ma uno mi ha chiesto un panino, se glielo compravo, un panino con l'affettato. Oggi tu, ma non te ne vasi, non so cosa ne vasi ieri. Senti che andavo già domandando un panino, no, il panino, se vuoi il panino solo te lo diamo, però farlo imbottito no, non è facciamo, e ci sono quelli già pronti, noi gli seguiamo il gruppo, costa 2,50 un panino imbuttito. E come la pila, un letto di mortadella e un panino, avrebbe due panini, come se lo vendi uno lo dai a Eti. E infatti, ho fatto così, due panini, ho preso e più ho preso un etto di mortadella, anzi, quella in busta, e gliel'ho tolta io la fetta, beh, poni il giro, vai, fate un panino, uno a te e uno a me, beh, andai così, grazie compà, ehi, non siamo compagni, no? Via, non ti devo capire. Ma esatto, va a portare a mangiare Siro, eh? Paviano a fammi, pizzai tu mia zia. Perché sono di caro se rispettare in droga, capito, roba da bere. Dopo a mangiare non ci pensano molto, ci pensano una minima parte proprio, mangiano qualcosa tanto che sei piedi. Ma pensano molto, io quando lavoravo a Porto Antonio, se lì dove c'era passeggiato, dove c'ho le tettuie, via mare. Lì dalle 9 di mattina erano con la birra calda, si comprava la birra calda, si beveva, cioè però avevamo la birra anche fresca, allora la mettevamo in frigo, pagavi 20 centesimi in più e ce l'avevi fresca. No, si la miravano in casa e se non bevevano lì sotto la tettuia, tanto per sconvolgersi, perché se non hanno droga si devono sconvolgere qualche volta. Andane bene, no, così no, no, non mi piace a me, né manco, ci mi piace di più, che ti una cosa fresca, no, calda, calda ti fai male, che ti fai la cuscia di vado. No, non c'è altra cosa più schifosa della birra calda, a me non mi piace proprio, no, se è calda non è bene, però devo mica calda. No, io se lo bevo un bicchiere lo devo bere un po' fresca. Ah, no, no calda, manco d'inverno ne vengo calda. Io d'inverno bevo l'acqua al frigorifero e non le lascio fuori. Io ho amici e amiche che la bevono calda, quando vengono a casa le devo togliere dal cartone perché loro la bevono calda, non le bevono dal frigo. Anch'io la bevo dal frigo, la lascio un po', la tolgo prima di mangiare e poi la bevo, ma anche quando devo bere un bicchiere me la bevo lo stesso, certo, non la giovì e va che, cioè, da me non mi piace. No, non mi dissetta mai, sai, grazie, mamma mia. L'unica cosa da fare è scaldarla un po' prima di ingoiarla, perché ti può venire che... Una volta che mi è venuto un malessere, ho bevuto l'acqua, allora dove lavoravamo c'era un bidone nelle celle dove scendeva l'acqua ghiacciata, e questo bidone sbrinava e scendeva l'acqua lì e si formava il ghiaccio. Quando volevamo berci una cosa la mettevamo in mezzo al ghiaccio, 5 secondi era ghiacciato. Ha giunto chissà coca cola, mi è giunto chissà che faceva, non riuscivo più a respirare. Questo mio collega, cazzo, mi ha visto, si è buttato lì, pensava che lo vedeva pure, ah, io già finito lì, cazzo, io alzavo la mano, cazzo, non mi gridire, pensava che ero fuori, l'avevo vista brutta. Congestione ti ha fatto congestione, ma ti ha fatto a me pure, ma ha fatto una volta, ha detto no, ma vai zitto a Billa prima sono riposato. No, io me la scaldo un po' in bocca e poi la ingoio, capito? perché c'è con questo servizio di barra quando c'è sciutato, perché cazzo che c'è tutta il cucciolone, poi forse mi viene che la devi impressa. Ecco, quello è sbagliato, farlo scendere tutta in una volta, perché cambiamento di temperatura ti viene la congestione. Infatti è così, bisogna stare attenti, bisogna stare, no, io la lascio, la tolgo almeno un quarto d'ora prima, mezz'ora prima, e poi la bevo, ed è fresca, aromatissimi, e poi la bevo, d'inverno, d'estate si abbongo subito, era vivo. Vabbè, fai bene, no, bisogna stare molto attenti, la congestione è brutta, ti si blocca il respiro, non riesci più a respirare, io faccio e chi dice vuole arrivare, pensava che lo fai a puttana. No, bisogna stare attenti, sì, già siamo bultimari, quindi bisogna stare attenti quando siamo vivendo in buro. Poi dopo che si sono accorti, si sono spaventati, mi hanno dato tutti i colpi alla schiena, cosa, già, ma cosa ti succede? E mi dà Coca-Cola, ma è troppo fredda, non la devi mica essere fredda, io c'è di grippa, perché dal sudato come ero, che stavamo scaricando un camion, stavamo facendo le pedane nel magazzino, ruia, ma carità, a gocciolone lo sudore. Certo. E poi la Coca-Cola mio, frizzante come ti è, ui, certo, invece. Ma allora ero tranquillo, non ero diabetico allora, ero tranquillo. La Coca-Cola ho letto che praticamente tutti gli zuccheri che c'ha, tutti di colpo li prendi. Infatti, forse è per quello che ci è venuto il diabete, con tutti gli zuccheri che abbiamo bevuto. Io c'avevo la mamma che era diabetica, capito? Quindi magari anche quello, io facevo la curva da carico ogni tanto, me la facevano fare, e poi un giorno è venuto il medico del lavoro e mi ha scritto una lettera di andare urgentemente dal mio medico con tutte le analisi. E sono andato e il mio medico non c'era, era in ferie, quindi ho chiamato mio cognato che è analista lì all'ospedale, fa le analisi del sangue, delle urine, eccetera. E mi ha detto già, ti devi mettere il cuore in pace, sei diabetico, cazzo. No, io non lo sapevo neanche, che non me l'ha fatta le analisi, me l'ha... bisogna accompagnare mia figlia Sergio Leone, che ha ciappato, che mi ha controllato pure a me e dice non sa mai pacifico, mi ha fatto un coso, dice lei è diabetico, mi ha fatto fare da voi, mi ha fatto fare analisi con tutto l'altro resto per vedere cosa ci avevo, mi ha controllato e pastiglia, io e mi ha fatto il foglio di andare cosa per l'esenzione. E qua in Sardegna tra diabete e anemia mediterranea siamo quelli che sono superiori come numero di diabetici e di persone con anemia mediterranea. E infatti siamo in un bel... Ma pensai che nella mia famiglia mia madre e mio padre non erano diabetici. I miei cugini dalla parte di mio padre sono tutti quanti diabetici, se ne salva solo uno, se ne salva se non è diabetico, ma chi bisogna un bel bisogno, se quando si può salvare, aspetta, si deve tenere, visto che ci sono tutte queste questi casi qua in famiglia, si deve tenere a regime. Invece dalla parte di mia madre ce n'era solo uno che è morto, va, non lo vedo più. Gli altri sono tutti tranquilli, ma non nessuno. Certo, solo dalla famiglia di mio padre, poi c'era mio nonno o mio bisnonno, diabetico, qualcuno in famiglia. A volte anche diciamo che sono ereditari, capito? Allora come mi ha detto il dottore, lei ce l'avrebbe potuta prendere fra 10 anni, fra 12 anni, però era predisposto, perché sua madre era diabetica, quindi era predisposto. A 60 anni la giubilata, io il diabete, a 60 anni. No, io ce l'ho tanti anni, io sono 20 anni col diabete. Avevo fatto 60 anni, poi mia figlia è coso, no? Ci ha avuto gravidanza del secondo, e il marito dice, ma mi accompagni a mio, a te si occupasse del burro. Sai chi vi? Nel 2011 sono riuscito diabetico. E come l'hai presa con l'internet? Io l'ho preso ben male, ben male, detto, cazzo, non ne voglio fare, perché vedeva mamma che faceva le iniezioni sempre, mamma si doveva bollire la siringa, che allora non veniva le penne, si doveva bollire la siringa, c'aveva il bollitore per la siringa, ogni volta doveva metterci la siringa, si metteva il braccio, ce lo pizzicava nel coso, come si dice, nel comodo lo metteva di lato, se lo pizzicava col comodo e poi si faceva la lesione lassù. Ma a me prima me l'ha data da Gosio, da 500 la pastiglia, me l'ha data. Poi dopo di 3 o 4 anni mi ha cominciato a dare oltre 50. Perché mala sorte, è una malattia che va sempre avanzando. È una malattia fantasma, ma è killer, capito? Una malattia killer. È fantasma perché non te ne accorgi, poi di colpo ti vede tutti di mano su. E Padozzi, e poi ne mangiavo, forse era Baghiscio che me l'avevano aumentata. No, ascolta, io dolci, ti dico la verità, prima non ne cercavo. Mamma ricomprava solo nelle occasioni, papassini, queste cose qui, compleanni, ma non eravamo di quelle famiglie che ogni domenica mangiano le paste, capito? Io non le cercavo, proprio quando andavo ai matrimoni le mangiavo, eccetera. Quando sono diventato diabetico, da dove grossi mi si invasi luce a palla. Ma no, poi ha detto, no, diciamo, poi fa un pochino di lontano dai dozzi. Allora faceva di questa maniera, che andava a casa di Lassari, a casa di mio cugnato, a casa di Guido, stavo un po' lontano dai dolci, perché se non mi butti addosso, arrivederci. Sì, ma io sono sicuro che se ti muore non dirà mi sono sotto al naso, non dirà mai. Poi fate così, se mi muore sotto al naso, non ti dico di no. assaggio, ma no, non li sto mangiando come li stavo mangiando prima. E io mangiavo salsiccia, formaggio, sto cercando di evitare tutte queste cose qua. Io a merenda, per dire, mettevo formaggio, un bicchiere di vino, formaggio e salsiccia, e mangiavo così a merenda. Adesso è tutto eliminato, non sto più mangiando nulla a merenda, perché mi stava salendo la glicemia. No, molte volte a pranzo faccio la minestra, no? Me la mangio io, me la mangio, e non mangio nient'altro, bevo acqua, un due bicchieri di acqua e sono a posto, e sto bene così, poi dopo un poco mi farà male la glicemia. Io l'ultima volta che l'ho fatto, il minestra di verdure, mi è durata 3 giorni, sono usato 3 giorni, però mi piace, quando è fredda la frigorifero, grazie tanto che mi piace così, quando è riposata, mamma mia. Sì, no, io la stessa cosa, quando avanza ho pasta asciutta, ho minestroni, ho minestre piselli, minestre patate, me la mangio verso le 4:30, 5, come rientro ad accompagnare il cane, me la mangio. E poi non c'è. E poi dopo di un'oretta mi si abbassa ad un bel. Perché le verdure non ti fanno ingrassare, più che altro se tu ti fai la minestra di verdure solo senza metterci la pasta non ti fa ingrassare nulla. Sì, infatti è così. È così, infatti. E anche se mangio io, per esempio, un pochettino di che del resto che è avanzata di pasta asciutta. Ma non gli sa, è togubetto. Io a volte che faccio la minestrina di dadi, no? Ci metto un dado, un po' di sugo, un pezzo di burro e appena appena duri. Ma poi come le metto il formaggio, cazzo quanto mi piace, quando c'è freddo me la faccio, poi a volte ci metto anche due pezzettini di pane, ma proprio due pezzettini in mezzo al brodo, cazzo quanto è buono. Cioè, io mi mangio la mattina verso le 10:30, 11, mi mangio un pezzo di pane con una fetta di fontina in mezzo, o quell'altro formaggio e menta, una fetta di quello e me la mangio, e poi non mi sale la glicemia. E l'unica cosa è che non ti metti molto pane, se ci metti un panino intero gli altri si attazza, e come ti si attazza? A me se io mangio un panino intero, io mangio mezzo panino mi attavola, non ne mangio un intero, mezzo panino svuotato dalla mollica. No, io non ne mangio per niente a pranzo di pane, perché lo mangio a coso, alle 10:30, 11, mangio a metà di panino e mi sazio a quello. Ma tu ti mangi il primo, io il primo non ne mangio, lo mangio solo la domenica il primo, perché ho capito che va mangiando il primo ma stava rimpicco. Oppure quando mi controllo la glicemia verso le... finisco verso le 3, alle 5 mi faccio... con la glicemia non ce l'ho alta, 110, 116, 104, un bel di voti. Io mi ce l'avevo a 103 prima di pranzo, però la mattina presto ce l'avevo alta, ce l'avevo a 206. Vabbè, forse perché ho mangiato la faina e mi ha fatto questo effetto contrario. No, io quando sono mio, giovedì, ieri, me l'ho controllata di mattina, ce l'avevo a 119, ce l'avevo. E la notte mi davi a 116. E tu sei bravo. Ma ci saranno stati momenti che ne ho buttata anche tu. Dipende, allora io ho capito che se tu ti fai più insulina ti fai ingrassare, se invece ne fai di meno dimagrisci. Io ero capo sotto i 90, mi ero 87, adesso sono di nuovo salendo, come mi faccio più insulina, capito? Ma roba già bene tu beso io, eh? 64 kg beso. Ma tu sei di costituzione, così io sono di costituzione grossa, non lo sa tu da me grossa io. Sì, la dottoressa, ma io non mi abito per farmi un vaccino, io non mi abito, signor Pina, ma non sta mangiando lì, che non sto mangiando? Mangio quello che devo mangiare per la glicemia. E ora, non gliel'hanno detto che è troppo magro. Ma è costituzione, tu non sei mai stato grosso, vero? No, quando ero giovane ero una secca, stavo via 20 anni, 18 anni, 20 anni, ero una secca. Quando mi sono occupato di un militare, oggi ingrassato un po' garido, i pantaloni mi sono andato a finire la misura di goso. Aspetta, c'è la 60, 62. I pantaloni. Sono diventato grosso mi, ha già ingrassato un bel, mi ha ingrassato. Da 62. Sì, allora che tu vai giù, 54. 54, proprio, e mi stanno anche un po' larghi 54. Ma poi ho cominciato, dice no, a Egitta, faccio fatto un giro nelle camere, ma ho vigliato un pantalone fatto bene a linea mia proprio, e me ne... poi ho cominciato a dimagrire, che sono sceso, ma ho vigliato i pantaloni e uno mi ha detto, ma ci sono i pantaloni miei, che hanno dei compareggi, e allora mi ho fatto venire in camerate. fatta, me la ci fatta a nuovo. No, ma magari anche l'aria, non vedi a fare militare. Prima da Arezzo sono andato a finire a Trieste, prima sono andato a finire nella caserma di polizia, sono rimasto 3 mesi, poi da lì mi hanno mandato via perché dice che mi hanno messo i bastoni fra le ruote, c'era qualcuno che non mi vogliava vedere e mi ha messo le cose, allora da lì mi hanno portato alla caserma militare, mi hanno portato, anche perché ho cominciato a ingrassare. Ma tu eri in polizia perché? Ho fatto la domanda, ero tutto abile e cosa fa a fare un poliziotto, infatti sono andato in caserma della polizia, sono andato e ero lì, c'ero 3 mesi marcendo, venne in ufficio e cose, facendo addestramento e tutto quanto. E vera che anche tu mi sei molto contro di te, non ti ha voluto, dai. E beh, potevano trasferirti in Sardegna, cosa di una futtia. Di là e poi arrivi dalla retta da Roma. Dove insieme? E mi hanno portato alla caserma militare, mi hanno portato. Ma lì, fino al terzo mese, va via 600.000 lire al mese, c'avevo. E chissà lì, ma una volta che mi hanno portato in caserma militare, 5 euro al mese. No, non ci pagava una settimana, io ero al mare in ferma, la Maddalena, in marina. Mi davano 5 euro ogni settimana, mi davano, ci davano, 5 euro ogni settimana. Ma cosa facevi tu, pattugliamento anche della polizia? No, non sono mai riuscito a fare pattuglie né nulla. Solo quando ero militare che ho preso il grado da caporale, allora c'è una bizzurra scio, insieme alla ronda. Ah, facevate la ronda, io li vedevo in Piazza Castello, passava in Trera. Poi facevo a Trieste, lo facevo, pensa un po' a Trieste cosa vita, andare via in navi americane, francesi, tedeschi, cosa ci appavi, ma sai quanto venivano, e tutti li devi controllare, anche i tedeschi, i francesi, gli americani e gli umani erano. Ma io dovevate fermare perché? Tutti le ferme vanno, da loro passavano le cose che andavamo noi ed andavano a cerca femmine. Allora tu dovevi andare dove erano loro. E un po' di volte c'era un sorgente, un capitano, un sorgente e un caporale. Non ti piace, un caporale maggiore. Io ho fatto il mare in ferma alla Maddalena e ci sono stato una settimana. Ed ero viziato, perché la suora mi ha detto, non ho mai fatto il letto, no, io sono l'unico maschio ed avevo 4 donne femmine a casa, come sorella, più mamma, quindi i letti di Basiariati mica avevo fatto un rito. Mi ha fatto vedere come si faceva il letto, poi a colazione mi ha portato i biscotti, tutti grazie, bobo, la monza si è accascittato, E mi trattavano bene, dai Gianni vieni in infermeria, visto che tu facevi sambulato, vieni in infermeria che mi richiamo questa militare, sai cosa è successo di notte? Sentiamo la Iana, prendisi, io coricato, mi sono comuto sotto le gomme, sotto le nonche, succede neanche cosa. Questo qui ha preso e aveva le feci in mano. L'ha spalmata e tutto nel letto di questo qui che si era alzato per andare in bagno. Questo qui è ritornato e si è messo sotto le coperte e si è tutto imbrattato di cacca. Cazzo. Si incazza questo qua, prende una bottiglia, la spacca, cazzo, l'ha abbassato e faccia all'isso. E lui non credevo che succedesse. A fare così, no, io... Dov'ero io da militare, dov'ero io c'è uno di numero, più di uno veniva, però era io che ero biomaro. Infatti a questo qua poi sono dovuto accompagnare sia io, il capitano, il sorgente a Gaeta. Una passeggiata da Gaeta dovevamo fare, accompagnarlo. Sia chicco di Giosso che chicco di Nuoro. Tutti e due. Senza le braccia lenti, anche noi vogliamo in treno, non li potevi mettere. Ce li avevamo in una cabina giù noi, verami, busati. A mangiare dovevamo entrare, come si fermava il treno, dovevamo far aspettare il treno, scendere e dare, farlo mangiare, non parare di mangiavamo noi in buio, non è cosa militare alla stazione. Ma chi bisogna ricombinare? Ehi, catta, ma poi quando siamo arrivati a Gaeta, siamo dovuti fermare a mangiare prima di entrare, a mangiare, e poi siamo arrivati a Trento, ce la siamo liberati subito, catta, ho abbigliato il treno, siamo tornati immediatamente. Senti, cosa avevo combinato per portare a Gaeta? Abbiamo fatto lo chicco di Nuoro, abbiamo fatto lo gavettone a un colonnello, abbiamo fatto. A un colonnello e a un generale, abbiamo fatto lo gavettone. E due altri due. Altri due ci sono salvati. Poi c'è da pigliare lo più grosso, la Gaeta. Noia, e quando non rimangiare di porcherie gavettone, per carità. Lì c'era un bel nonnismo, a uno le hanno fatto cantare Cicci Cucù e per me è finita perché ce l'ho a vita, Cicci Cucù sopra l'armadio, da poi l'hanno buscato, quando era dormito la sigaretta accesa in mezzo alla dita dei ribelli, quasi finita la sigaretta, come ti arrivi a toccare le dita che c'è tutto il sicchino. Sì, a quello lo facevano anche a noi, lo facevano, però a me non mi hanno mai toccato nulla, mai fatto nulla. Ero sempre tranquillo io, detto, non ho dato mai fastidio a nessuno, e dormia, e da c'avevo sonno profondo mio, eppure non mi hanno fatto mai nulla a me. Ai romani, contro i romani viraviani, anche i romani facevano tutti i colori li hanno fatto. Poi da lì sono andato a finire al comando truppe, quindi per il generale d'armata. Lì sono andato a finire e da lì ho cominciato a stare bene. E facevo proprio, si può dire, sabbè, lavoravo nel coso degli ufficiali, nella messa ufficiali, poi da lì al bar degli ufficiali. E hanno operato una cosa di tutto, i bagliani di tutto erano tutti. Quello sì. Beh, Tore, è arrivata l'ora, dai, vabbè, datti i basiti. Io sto scendendo col cane, dai, è già ora di scendere. Ci sentiamo, dai, buona serata, buona continuazione. Sì, ok, altrettanto già. Ci risentiamo alle prossime, ciao. Ciao.